Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. 167 ogni giorno. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Sapete a che cosa si riferisce il dato che abbiamo appena citato? Sono i negozi che chiudono ogni giorno. Ebbene sì, nei primi mesi di quest'anno 167 negozi ogni giorno hanno abbassato la serranda e nelle città molte vie si stanno praticamente svuotando. Ne parleremo tra poco nello spazio dell'approfondimento. Focus sui trend dedicato invece ai consumi necessari quando il limite fa tendenza. Prima ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Parte martedì 9, chiude domenica 14, la 52esima edizione del Salone Internazionale del Mobile e del Design. L'appuntamento che ogni anno detta le tendenze dell'abitare. Per il fuorisalone, riflettori puntati sulla Tortona Design Week e l'area Ventura Lambrate. Continuano a rallentare i consumi. A febbraio, secondo Confcommercio, sono calati del 3,6% rispetto al 2012. Su base mensile, invece, il dato è invariato. Crolla la spesa anche per i prodotti base dell'alimentazione, sottolinea Coldiretti, con un taglio del 4% dei consumi di frutta, del 3% per gli ortaggi e del 7% per la carne. Anche nel 2013 Milano si conferma regina del tax-free shopping. Secondo i dati Global Blue, nei primi due mesi dell'anno gli acquisti dei turisti extraeuropei sono cresciuti del 16%, con uno scontrino medio tra i più elevati, 838 euro. A trainare il tax free milanese sono ancora una volta i russi, seguiti dai cinesi. È Marilyn Manson il nuovo volto di Saint Laurent. Il cantante americano ha posato per una campagna pubblicitaria della casa parigina, che dopo il cantante Beck ha scelto di nuovo un'immagine sovversiva. Dopo un tour che ha toccato anche Parigi e New York, è appena sbarcata a Milano la mostra fotografica firmata Karl Lagerfeld The Little Black Jacket, dedicata alla celebre giacca nera Chanel. Un omaggio al capo inventato negli anni 50 da Coco e diventato un must-have universale. Prossime tappe della mostra, Dubai e San Paolo. La borsa della spesa. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. L'amore cantato da Mina in questo caso non c'entra, le città sono vuote davvero in molte vie del centro in cui si moltiplicano i negozi sfitti. Qualcuno parla addirittura di desertificazione urbana. I dati dell'osservatorio Confesercenti sono allarmanti, nei primi due mesi del 2013 sono spariti quasi 10.000 negozi, 167 al giorno come dicevamo in apertura, e il dato è al netto delle nuove aperture che si sono praticamente dimezzate. I locali sfitti nel nostro paese sono ormai 500.000. La maglia nera delle serrande abbassate va a Roma, seguita da Torino e Napoli. Mai così prima d'ora, ci dice il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni. Sono purtroppo i dati più allarmanti sicuramente dal dopoguerra fino ad oggi. Non c'era mai stata una situazione di così evidente difficoltà, oltretutto percepibile anche passeggiando per le strade delle nostre città, è tangibile proprio vedere l'entità degli esercizi chiusi anche all'interno delle vie commerciali che un tempo erano considerate comunque dal punto di vista della posizione anche le più strategiche. Il dato che ci preoccupa maggiormente è che non si avviano più imprese. Nei primi due mesi di quest'anno rispetto ai primi due mesi dell'anno scorso c'è stato proprio un dimezzamento di quelle che erano le aperture di nuove attività. 2012 10.000, 2013 5.000. Ci sono settori più colpiti di altri o la tendenza è comunque generalizzata? Ma guardi, la tendenza è generalizzata, colpisce tutto, non solo i piccoli esercizi, colpisce anche la grande distribuzione, le contrazioni sono ovunque. Ci sono alcuni settori che rispetto ad altri soffrono molto di più, ad esempio il settore del tessile e abbigliamento è uno di quelli che decisamente soffre di più rispetto ad altri e anche questo è un trend purtroppo che si sta via via aggravando nel corso degli ultimi anni. La disponibilità di spesa delle famiglie italiane fino a qualche anno fa sui generi di abbigliamento si attestava attorno al 10-11% ed era una delle più alte al mondo insieme al Giappone. Oggi siamo arrivati ad avere una quota di spesa dedicata al tessile abbigliamento che non supera il 5% di quella che è la fetta delle spese delle famiglie. Al di là della perdita economica c'è anche un dato che ha a che fare con la geografia delle città, perché si parla addirittura di desertificazione urbana, ci sono intere vie in cui sono più le saracinesche abbassate che quelle alzate. Più esercizi chiudono, più locali non vengono occupati, ovviamente più perde interesse anche l'appeal della via stessa, quindi da una parte c'è la mancanza di un'attività di impresa, la relativa occupazione che già di per sé è un problema, dall'altro c'è una caduta anche dei valori immobiliari, un mancato ricavo per quanto riguarda l'affitto, ma non solo, vengono a mancare anche i punti di riferimento, i punti di aggregazione, i punti di controllo, la presenza degli esercizi all'interno del tessuto urbano è comunque un elemento di equilibrio per quanto riguarda la nostra società, sia perché dà l'opportunità comunque di vivere queste zone, sia perché rappresenta comunque un elemento di controllo anche rispetto ai fenomeni di abbandono, di microcriminalità ed altro. Quindi noi questa è una cosa che denunciamo da tanto tempo. Poi ci sono state altre componenti che hanno influito, ovviamente il proliferare dei centri commerciali, dei factory outlet, ha portato comunque ad un movimento centrifugo che va al di fuori delle città. Dall'altro questi provvedimenti di liberalizzazione che hanno riguardato in particolare il mondo della distribuzione sono provvedimenti che comunque minano ulteriormente la tenuta delle piccole imprese. Questo fatto delle aperture domenicali e festivi continue sposta quote di consumo dai piccoli nei confronti dei grandi. C'è una situazione generale che non permette più di avere una funzione di natura commerciale della distribuzione così come eravamo abituati fino a poco tempo fa. Quindi il problema è un problema che va visto a monte. In ogni città ci sono le vie simbolo, loro malgrado, di questa strage di negozi. A Torino è via Amendola, una delle storiche vie pedonali del centro, dove qualche mese fa ha chiuso persino il Burger Time, il primo fast food di Torino. Abbiamo sentito il presidente dell'Associazione dei commercianti di via, Paolo Capuana. Via Amendola è come praticamente le altre vie della città, gli affitti sicuramente sono molto alti e le aziende non riescono più a sostenere i costi che ci sono, vista la crisi, sia per il personale, sia per gli affitti appunto. Poi si sono inseriti altri fattori, per esempio il costo, e quindi la gente preferisce magari andare a passeggiare nei centri commerciali piuttosto che venire in via Roma e piuttosto che passeggiare, diciamo così, nelle vie centrali della città. Sono tante le saracinesche abbassate? E dunque, guarda, su 20 negozi sono circa 8. Quindi sì, praticamente un buon 40%, un 30-40%. Sicuramente sì, finché non ci sia un calmiere anche sugli affitti delle attività, dei negozi, penso che la crisi sarà sempre più fortente. Ad esempio la pavimentazione, che è un po' andata a ramengo, come si dice, per l'usura, non viene più ripristinata, vengono messe, diciamo, delle palate di asfalto, hanno tolto il parcheggio di via Roma, potevano tenerlo aperto. Cioè, capisce, c'è tutto un po' un dissesto generale. Essere e avere. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, troppo di tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Troppo di tutto, troppo di tutto. Qua